altro viaggio immaginario, tu continua sempre a perderti via. Mia vita, mia vista, mia sposa mortale. La mano riapre, terre inesplorate, la città di Campanella, il manicomio di Campana verso il sole che fonde metalli, fresire granellate, pennellate sopra palpebre assonnate. La mia mente sembra un passero, si schiuma, beve la spuma del riflusso cerebrale. La mia vita era un teatro in cambio scene, polvere, disordine e silenzio che ne segue. La lingua palco a chi la passa giù alle sillabe, cielo suggeritore sotto al palmo del mio piede. Torri in pedana che dico la battuta, poi scappano dietro le quinte, non danno mai tempo di udire a nessuno. L'uno toglie di vista l'altro, mentre l'attesa nel silenzio le consuma. One step forward from what you made, one step away from your mistakes. All I can do is just trying to move. One step behind is happiness. One step and then I won't step back. Nothing to lose, I'm making nothing to lose. Ho visioni di grazia girata da luce bianca, la mente arriva dove il mio occhio arranca. Se intorno al buio lo sguardo diventa nitido, in questo scenario onirico la percezione si esalta. Il corpo prima è la mia anima, se, e ne diventa la prigione. La legge di necessità opprime le persone, le rende schiave di bisogni e di soddisfazione. Torno alle madri perché cerco la purezza, l'essenza del colore dietro all'apparenza. In quarta dimensione mi perdo all'occorrenza, registro vibrazioni, immagini, flash di solvenza. Perdo riferimenti spazio-temporali in un Big Bang di tumulti originali. Nel caos indistinto, distinti primordiali, ritrovo me stesso, perdendo me stesso. One step forward from what you made, one step away from your mistakes. All I can do is just keep trying to move. One step behind is happiness. One step and then I won't step back. Nothing to lose, I'm maybe nothing to prove. E provo ancora il gusto della descrizione, proprio quando quest'infezione la vista mi ruba, consuma. Passerò con ogni sfumatura dello sguardo, forza e voglia lascia l'imbarazzo al tratto della mia interpretazione. E di ritardo non è altro che pausa di riflessione, ed ogni azione che compievo in fingardo è pace. Ora un garbo dell'affetto per ogni distanza, penso a delle gambe, la speranza chi ti va cercando. Il cuore sta pulsando, luce scomposta nelle vene, quello che l'occhio non vede lo importo di contrabbando, esasperando nei contorni dipinti. Insieme mi muovo con il passo desolo in terre straniere, come il neonato che tasta carponi la consistenza di nuovi suoli prima di azzardare un passo. Ascolto l'aria captando nelle emozioni, cercando nuove pulsioni prima di riattivare lo sguardo. One step forward from what you made, one step away from your mistake.